Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Decongestionare le strade riducendo il traffico del 5-10% grazie a un algoritmo matematico che permette alle auto private ma anche ai mezzi pubblici di coordinare i propri tragitti a vantaggio di tutti. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. È questo lo scenario su cui si esercita da qualche tempo Valentina Morandi, ricercatrice della Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano, che insieme a due colleghi dell'Università di Brescia, il professor Enrico Angelelli e la professoressa Maria Grazia Speranza, punta sulla cooperazione, sulla partecipazione di tutti noi per ridurre impatti ambientali e tempistiche di trasporto. Buonasera Valentina Morandi. Buonasera a tutti. Allora Morandi, anche se immagino, ma ne sono piuttosto certo, insomma, che la matematica necessaria per governare gli spostamenti di migliaia di persone e di veicoli in tempo reale sia decisamente complessa, il concept alla base della sua idea, dopo tutto, è semplice. Io direi che possiamo partire da qui. Sì, il concept è piuttosto semplice. Quello che viene richiesto dal modello matematico, ma anche a livello umano alle persone, è quello di poter accettare, di poter essere inviati su una strada leggermente diversa rispetto a quello che il navigatore tradizionale e anche quelli real time di ultima generazione sono abituati a proporre, di scegliere un percorso che è leggermente più lungo in termini di tempo o in termini di appunto chilometri, per favorire quello che è il benessere di tutta la rete cittadina e quindi abbassare il tempo totale di attraversamento sulla rete per tutti quelli che sono gli utenti che fruiranno della rete nel momento specifico che si andrà ad analizzare. Ecco, lei ha detto che bisogna accettare un leggero ritardo, ma in realtà non è proprio così, perché a qualcuno può capitare effettivamente di avere un piccolo ritardo, voi gli date anche un limite ben preciso, ma la maggior parte delle persone, se no non ci sarebbe questa riduzione di traffico, guadagna tempo. Sì, quello che noi facciamo in buona sostanza è quello di mettere un tetto massimo al ritardo che una persona può percepire sulla rete, ma quello che succede nella realtà è che il modello matematico è in grado di abbassare i tempi di percorrenza in media per tutti gli utenti della rete. Solo qualche utente potrebbe sperimentare dei tempi di attraversamento che sono leggermente più alti rispetto a quelli che sono quelli forniti da un Google Maps della situazione piuttosto che altri sistemi di navigazione di ultima generazione, ma è comunque un ritardo impercettibile, quindi di fatto ogni utente ne guadagna. Voi parlate di un massimo un ritardo di un minuto su un tragitto di 30 minuti, quindi insomma. Sì, esatto, e comunque stiamo parlando del caso peggiore possibile, nella maggior parte dei casi non si arriva nemmeno a questi valori. Tra l'altro c'è questo termine tecnico ma molto così evocativo, che è price of anarchy, il prezzo dell'anarchia, che è quello che paghiamo per il fatto che ognuno di noi sceglie in modo così indipendente. Ecco, qui arriviamo alla domanda successiva, anche se forse l'ascoltatore attento ci sarà già arrivato. Che cosa impedisce di fatto oggi di applicare questa, questo coordinamento generale? Il problema attualmente è che l'essere umano è abituato per sua natura, forse anche solo psicologica, a prendere sempre la decisione che è meglio per l'individuo in sé. La decisione che è il meglio per l'individuo in sé non è detto che sia il meglio per il sistema. Tutti vogliamo fare la strada più veloce e ci troviamo tutti ingolfati lì, banalmente. È proprio questa la problematica. In realtà, se ci fosse un sistema centrale a decidere per noi, riusciremmo tutti a guadagnarci, però a questo punto noi dovremmo perdere in quella che è la nostra individualità nella scelta. Ecco, però oggi uno dice, ma con tutti questi navigatori sofisticati, questa governance centrale c'è già. Manco per non niente. È proprio così, nel senso che i navigatori non parlano tra di loro, e questa è una cosa molto importante, perché loro conoscono solo i dati del traffico, ma non fanno nessuna valutazione a livello di coordinazione tra i vari utenti. Quindi risolvono un sottoproblema, non quello generale. Esattamente, loro risolvono un sottoproblema, ha detto proprio la parola perfetta. Allora, come si può fare a convincere le persone ad accettare, insomma, di essere guidati secondo un criterio di bene collettivo? Perché un giorno arriveranno le auto a guida autonoma e lì probabilmente succederà senza che nemmeno ce ne accorgiamo, ma questo giorno potrebbe essere un po' troppo lontano. Certamente, allora diciamo che dal punto di vista della guida autonoma il coordinamento centralizzato verrebbe del tutto naturale, però è anche vero che è possibile mettere a punto dei piani appunto di tariffazione dinamici in modo da premiare i guidatori che seguono le valutazioni del sistema e che aiutano il sistema a essere decongestionato. Quindi anche senza i veicoli a guida autonoma potremmo anticipare l'utilizzo di questi modelli mettendo a punto questi sistemi di tariffazione dinamica. Ecco, quando parla di tariffazione dinamica, considerato che uno sta seduto sulla sua auto privata, che cosa si intende? Uno sconto quando prende il caffè? Di cosa parliamo? Beh, quando si parla di tariffazione dinamica, semplicemente è tale quale quella che può essere il pagamento per l'entrata in una ZTL, solo che al posto di pagare per entrare in una zona congestionata, si paga semplicemente per il fatto di non voler aiutare il sistema ed essere decongestionato e quindi di fatto fare una scelta propria rispetto al fatto di non pagare nulla nel momento in cui si seguono le istruzioni del sistema centralizzato. Senta, ma nel momento in cui parliamo di privati cittadini a bordo della loro auto, come possiamo poi controllare se, come dire, seguono le istruzioni oppure no? Nelle nostre reti cittadine abbiamo comunque dei varchi dove è sempre possibile controllare chi passa o chi non passa. Quindi a questo punto si potrebbe tranquillamente controllare se il passaggio di un certo veicolo è previsto dal sistema centralizzato o meno attraverso un certo varco e quindi controllare se è il caso di applicare una tariffazione diversa. Ecco, naturalmente bisogna fare tutto con grande attenzione per la privacy. Ecco, questo deve essere chiaro. Grazie per intanto Valentina Morandi, ma ci risentiremo. Grazie mille, arrivederci. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, ma domani torniamo a parlare di come ottimizzare i tragitti, questa volta dei mezzi pubblici nelle aree remote. Per intanto, buonasera a tutti.